giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In un anno sono stati 113.000 gli ucraini transitati per il Friuli Venezia Giulia, sono in prevalenza donne e bambini. La maggior parte di loro, 61.500, sono passati per la frontiera di Fernetti, 6.200 quelli che hanno scelto di restare in regione. Per tutti un permesso di soggiorno di un anno che si avvia alla scadenza e alla probabile proroga da parte del governo. Assemblee dei lavoratori alla Electrolux di Porcia, all'ordine del giorno i passi formali di 76 dipendenti verso le uscite incentivate, incentivi da 12.000, 25.000 o 72.000 euro, sufficienti a coprire i contributi pensionistici. Sullo sfondo la preoccupazione per l'interesse cinese per il gruppo. Le conseguenze sulle ATER dello stop alla cessione del credito nell'ambito del super bonus 110% in Friuli Venezia Giulia, a rischio il 50% dei lavori programmati, la situazione più problematica a Gorizia. Qui ammontano a 13 milioni gli interventi di riqualificazione energetica non ancora partiti e che rischiano di restare al palo. I carabinieri hanno comminato multe per oltre 100.000 euro e sospeso 4 attività imprenditoriali in provincia di Udine nell'ambito di un servizio di controllo contro lo sfruttamento del lavoro e contro il sommerso in esercizi pubblici, agricoltura ed edilizia. Le sanzioni sono scattate a Tricesimo, Maiano, Reana del Royale e Codroipo. Sabato il ministro dell'istruzione Valditara sarà a Basovizza per visitare il monumento della Foiba e il vicino museo. Il viaggio nell'ambito del progetto nazionale 10 febbraio a Matesponde. In vigore dal 1 marzo la riforma Cartabia della giustizia. Fra i capitoli interessati da modifiche anche il diritto di famiglia. In materia di separazione e divorzi dovrebbe, almeno in teoria, essere più ampio lo spazio della negoziazione assistita, una formula per evitare i processi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Domani sarà un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una guerra che ha prodotto milioni di profughi in tutta Europa. A migliaia in marzo attraversarono proprio il confine di Fernetti per entrare in Italia. Ebbero permessi di soggiorno umanitari per un anno. Allora nessuno pensava che il conflitto, 12 mesi dopo, sarebbe stato ancora lontano dalla conclusione. Presto dunque quel lascia passare scadrà per migliaia di persone. Il governo ipotizza per i prossimi giorni un decreto che proroga i permessi per altri 6 mesi. Nel prossimo servizio, la situazione in Friuli Venezia Giulia. Vivere il più normale possibile nella speranza di veder finire la guerra che ha bruscamente interrotto la quotidianità fatta di lavoro, scuola, amicizie e affetti. C'è chi dopo un anno mantiene la speranza di tornare in Ucraina e c'è chi invece è consapevole che la situazione è ancora complessa e che il permesso di soggiorno rilasciato ai beneficiari di una protezione temporanea è in scadenza il 4 marzo. La preoccupazione soprattutto di quelli ucraini che hanno un contratto di lavoro, ma il rischio pare non sussista perché questi permessi conserveranno la validità per altri 6 mesi in base al nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina che vale 369 milioni per il 2023. Il testo sarà oggi in esame al Consiglio dei Ministri e prevede altri 7.000 posti in accoglienza, 40 milioni andranno agli enti locali ospitanti. In un anno hanno transitato per il Friuli Venezia Giulia 113.185 ucraini, in prevalenza donne con bambini. La maggior parte di loro, 61.433, sono passati per la frontiera di Fernetti. A Udine sono stati 43.443 gli ingressi, mentre a Gorizia 10.800. Gli ucraini che hanno scelto di restare sul territorio regionale sono al momento 6.206, 2.800 a Udine, 1.400 a Pordenone, 1.200 a Trieste, 700 a Gorizia. La maggior parte di loro vivono in case private, solo 950 sono accolti nelle strutture di accoglienza, 380 a Udine, 288 a Trieste, 166 a Pordenone e 115 a Gorizia. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. All'Electrolux di Porcia, oggi assemblee dei lavoratori ad ogni turno. I 1.500 dipendenti sono preoccupati per le voci diffuse nei giorni scorsi di cessione del gruppo ai cinesi della holding Midea, già presente in Italia, seppure solo al momento, con un servizio di assistenza alla clientela. La prima assemblea nello stabilimento di Electrolux di Porcia già alle 8 e poi a susseguirsi ogni turno all'ordine del giorno i passi formali che i 76 dipendenti, di cui 36 operai e 40 amministrativi, dovranno affrontare nelle prossime settimane per portare a compimento le uscite incentivate che rientrano nell'accordo già firmato tra sindacato e azienda. Incentivi da 12.000, 25.000 o 72.000 euro, sufficienti a coprire i contributi per raggiungere il pensionamento. La procedura partirà nelle prossime settimane con la firma dei 75 verbali di conciliazione e quindi con i licenziamenti collettivi in aprile. Se gli esodi, seppur incentivati, sono già stati fonte di preoccupazione per i lavoratori consapevoli che la misura era stata presa per ridurre i costi di Electrolux Italia, che ha chiuso l'anno con un calo di vendite, le notizie apparse sulla stampa recentemente sulla cessione di Electrolux ai cinesi hanno messo in allarme i 1.500 lavoratori di Porcia. Troppo concreto il caso della Whirlpool passata ai turchi. Roberto Zani, segretario della UILM. Ovviamente preoccupa moltissimo la notizia apparsa sui giornali, anche se ad oggi l'azienda ne smentisce né conferma questo interesse nel vendere l'asset produttivo che riguarda gli elettrodomestici. Per cui abbiamo chiesto al governo già tempo addietro di poter fare un incontro sul settore dell'elettrodomestico. Riteniamo sia un settore strategico per l'occupazione e per quello che sviluppa nel nostro paese. Ed è chiaro che una di quelle domande importantissime sarà rivolta proprio all'intenzione di Electrolux e che intende fare il governo in termini proprio di azione e tutela dell'attività lavorativa, delle produzioni, ma delle occupazioni e quello che poi ovviamente è indispensabile per il territorio. Pordenone, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo stop del governo alla cessione del credito nell'ambito del superbonus 110% ha conseguenze anche sull'edilizia popolare. In regione sarebbero a rischio il 50% dei lavori programmati che non sono ancora partiti. La situazione è diversa provincia da provincia. La situazione più problematica a Gorizia, dove il direttore dell'ATER Giuliano Isontina, Franco Corenica, stima circa 13 milioni di interventi di riqualificazione energetica in edifici sia di intera proprietà pubblica che mista pubblico-privato non ancora partiti e che rischiano di restare al palo. In alcuni casi si potrebbe pensare di sbloccarli con l'aiuto di finanziamenti regionali, specifica Corenica, che segnala una situazione diversa a Trieste, dove invece è stato speso l'intero budget di interventi di edilizia sovvenzionata e sono già partiti cantieri per circa 67 milioni di euro su edifici di intera proprietà pubblica e per 35 milioni su quelli a proprietà mista. A Pordenone, fa sapere il direttore dell'ATER del Friuli Occidentale e di Udine, Lorenzo Puzzi, le ultime disposizioni del governo sul superbonus hanno messo a rischio 6 milioni di lavori concentrati in tre edifici di proprietà pubblica a Fontana Fredda e ciò a fronte di un piano di interventi di efficientamento del patrimonio edilizio nel pordenonese da oltre 70 milioni già in corso d'opera e al sicuro. Quadro migliore a Udine provincia con 53 dei 54 milioni di euro di interventi programmati già avviati. A rischio dunque solo un cantiere da 1 milione di euro per la riqualificazione di 4 palazzine in Alto Friuli per il quale era stato appena ultimato lo studio di fattibilità. Lo stop alla cessione dei crediti, spiega ancora Puzzi, penalizza principalmente gli interventi pubblici che hanno il vincolo della scadenza del 30 giugno per la realizzazione del 60% dei lavori e dell'assegnazione degli stessi con procedure più complesse. Federcasa, la Federazione Nazionale per le Case Popolari, informa intanto di essere in contatto col governo per far evidenziare le difficoltà e far valere le richieste delle ATER territoriali. Si conta su una proroga del superbonus mirata all'edilizia residenziale a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Multe per 100.000 euro e 4 ditte sospese in Friuli a seguito di controlli dei carabinieri per contrastare lo sfruttamento del lavoro e il sommerso nella provincia di Udine. Il servizio. 25 lavoratori controllati, sospese le attività di 4 aziende, sanzioni per oltre 100.000 euro e il bilancio dei controlli effettuati dal nucleo ispettivo Carabinieri del Lavoro di Udine con la collaborazione dei militari della compagnia del capoluogo friulano. I controlli hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come la mancata redazione e aggiornamento del documento valutazione rischi, la mancata formazione in materia di sicurezza sicurezza dei lavoratori, l'utilizzo di impianti di videosorveglianza non in regola, l'omessa manutenzione dei presidi antincendio e la presenza di manodopera in nero. A finire sotto la lente di ingrandimento dei militari dell'arma, quattro pubblici esercizi, un'azienda agricola e un'azienda operante nel settore dell'agricoltura, sospesa l'attività imprenditoriale per gravi violazioni alla sicurezza in un cantiere edile di Martignacco. Non erano state predisposte idonee opere provvisionali tali da evitare la caduta dall'alto dei lavoratori e per non aver redatto il documento di valutazione rischio. A Tricesimo, in un'azienda agricola che svolgeva attività di supporto all'agricoltura, è stata sanzionata per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi e per la presenza di due lavoratori in nero. È stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero e per gravi violazioni sulla sicurezza. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il caso Resinovic. Il fratello di Liliana ha annunciato durante la trasmissione Chi l'ha visto di ieri sera l'intenzione di proporre ricorso al GIP contro la richiesta della procura di archiviare il fascicolo. Se il giudice dovesse accoglierla, dovrà lui stesso indicare ai magistrati inquirenti il reato per il quale procedere e quali indagini compiere. Da un lato la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Trieste del caso di Liliana Resinovic, che secondo gli inquirenti si sarebbe tolta la vita volontariamente. Dall'altro l'opposizione del fratello della donna, Sergio, che non accetta questa conclusione. I margini per una nuova ricostruzione di quanto accaduto alla 63enne triestina, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico del capoluogo, ci sono. Anche se i tempi potrebbero dilatarsi ulteriormente. Le parti hanno infatti 30 giorni per opporsi alla richiesta di archiviazione. Solo dopo questo termine il GIP può pronunciarsi, ma prima è probabile un'udienza che, se va bene, verrebbe fissata non prima di 2 mesi. Nel caso in cui il giudice delle indagini preliminari accogliesse l'opposizione del fratello, dovrebbe ordinare alla procura di iscrivere un reato, eventualmente un indagato, e dovrebbe indicare alla procura quali nuove indagini compiere. Sergio Resinovic ha spiegato alla trasmissione Chi l'ha visto, andata in onda ieri sera su Rai 3, le ragioni della sua opposizione. Io mi oppongo perché se lei appunto è uscita, è stata ripresa, è arrivata appunto in Piazzale Gioberti e dopo è stata ritrovata il 5 gennaio, ma e dov'era allora tutto quel tempo? Almeno. E in più poi ci sono proprio anche le lesioni, che la prima bozza di autopsia e lì appunto le rilevavano, mentre nella seconda di colpo non si sa proprio niente. Sulla presunta discrepanza tra prima stesura e versione definitiva del referto autoptico del perito del tribunale, il procuratore capo Antonio De Nicolo, da noi contattato, ha affermato che la bozza non è mai stata depositata in procura. Era una cortesia verso i consulenti di parte, ha detto, e di conseguenza non possiamo dire nulla al riguardo. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. Sabato alle 15 il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara visiterà il monumento della foiba di Basovizza e il vicino museo nell'ambito di un viaggio istituzionale nei luoghi del ricordo organizzato dal ministero con le istituzioni scolastiche. L'iniziativa, nata nell'ambito del concorso nazionale dal titolo 10 febbraio Amate Sponde, ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpatrio e forza d'animo, vedrà la partecipazione degli studenti di alcuni istituti scolastici. Con la riforma Cartabia in vigore dal 1 marzo cambiano anche le regole per le separazioni e i divorzi. L'intenzione del legislatore è di ridurre il ricorso al contenzioso giudiziario, e cioè a lunghe, costose e conflittuali cause davanti ai giudici, ma non è detto che l'obiettivo venga centrato. Una riforma epocale, secondo gli addetti ai lavori. La nuova normativa sul diritto di famiglia contenuta nella riforma Cartabia sul processo civile entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio. Si punta all'accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in materia di separazione e divorzio. Si avrà un unico rito per ogni procedimento in materia di famiglia. Obiettivo: arrivare a ridurre del 40% i tempi della giustizia civile. Nelle separazioni la finalità sarà quella di trasformare in accordo la maggior parte dei ricorsi. e incentivare così la conclusione delle procedure entro la prima udienza. Il rischio però è di un aumento del costo delle cause, dove conterà ancora di più la professionalità e la specializzazione degli avvocati. L'avvocatessa Emanuela Comand. Adesso se un mio marito o moglie mi tradisce e io voglio chiedere l'addebito e voglio attribuirgli la colpa della separazione, posso anche dichiarare in maniera sfumata, no, gli avvenimenti che hanno determinato tutto questo. Da oggi in poi non sarà più possibile, dovrò aver incaricato un investigatore privato, dovrò depositare una relazione, dovrò allegare fotografie, sms, tutto quello che mira a provare questo addebito. E questa, diciamo, è la parte negativa, no, di questo modo di procedere. Quello che dovrebbe essere, secondo l'intenzione del legislatore, la parte positiva è che gli avvocati arrivano davanti al giudice, che non sarà più forse il presidente del tribunale, ma un giudice delegato nominato dal presidente del tribunale e che darà comunque quelli che ormai le persone sanno sono i provvedimenti provvisori che dovrebbero durare per tutta la causa, con ben 4 atti già redatti e fatti. E il giudice ha letto tutte le nostre questioni, contestazioni, e a quel punto ci fa una proposta che può essere accettata o meno dalle parti. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo al tempo, con cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 12. A Trieste 10 gradi, a Udine 9 gradi e 5 decimi. 10 gradi e 5 decimi a Gorizia e a Pordenone 11 gradi e mezzo. 3 gradi a Piancavallo, a Sappada 4 gradi, a Travisio 6, a Forni di Sopra 7 gradi e 5 decimi, 11 gradi a Tolmezzo. In montagna, sullo Zoncolane e sull'Ussari, meno un grado, mentre sulla costa 11 gradi a Lignano e a Grado. Ed ecco le previsioni. Oggi pomeriggio prevalenza di cielo coperto con foschie e la possibilità di qualche debole pioggia sparsa, più probabile eventualmente nella zona di Trieste. Sulla fascia alpina possibile qualche breve schiarita e in pianura e sul Carso qualche nebbia, specialmente di notte. Il Noncello protagonista, assieme al Meduna e al Livenza, del documentario Andar per Acque, realizzato da Bruna Braidotti e Giulio Ferretti. Alcuni estratti saranno proiettati alle 18 a Pordenone, all'ex convento di San Francesco. Un lavoro che raccoglie le storie sul fiume dell'antichità, ritrova i racconti degli ultimi barcaioli, fino a toccare i nuovi utilizzi della via d'acqua Noncello Meduna-Livenza, legati alle attività sportive. Si intitola Incanto d'erba e urgenza. Il documentario di Roberto Pizzuti per la tutela dei prati stabili, che sono quelle formazioni erbacee che non hanno subito dissodamento, aratura o erpicatura e che vengono gestite attraverso lo sfalcio e il pascolo. Una presenza importante da mantenere per più motivi. Il film sarà proiettato stasera a Trieste al cinema Ariston. Sarà presente l'autore insieme allo zoologo e divulgatore scientifico Nicola Bressi alle 18. Scienza e alimentazione sostenibile è il tema dell'incontro in programma alle 17 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica e Tecnologica dell'Università degli Studi di Udine. L'alimentazione del futuro, che comincia già oggi, passerà per una produzione maggiore di cibo con un impatto ambientale minore. L'iniziativa rientra nell'ambito del laboratorio Tristino sulla sostenibilità quantitativa. Al Kulturnidom di Gorizia sarà illustrata alle 18 la stanza logomotoria, una novità nell'ambito dell'insegnamento e dell'apprendimento nata dall'idea di una ricercatrice goriziana e insegnante, Serena Zanolla. Ha combinato lo spazio fisico di un'aula senza sedie, banchi e cattedra che si trasforma grazie alla tecnologia in un contenitore di suoni e musiche attivati dal movimento degli studenti. Continua il percorso delle anteprime di Dedica Festival 2023. Oggi andrà in scena il pranzo della domenica, voci dalla cucina in un giorno di festa, reading tra narrazione e musica, organizzato con il sostegno del comune di Magnaria Arsa e basato sul romanzo Un chemin de table di De Kerangal.